tu il microfono, me l'avevi controllato? No. C'è un barattino, quello di... C'è un barattino che esce bene. Adesso, stasera, faccio la prova. Cioè, modifica, perché è una prova. Lega un po' di eco che ce l'hai troppo forte. Ho capito. Alessare, appena appena di ecco, di toglierlo, diminuirlo, perché è troppo presente. Adesso va bene, Luca. E adesso forse sembra di sì, prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova. E fino a 10 sai contare, lì ci siamo, dai. Dopo i 10 cosa conto? Quello che in pratica che non c'è. Neanche io conto, oggi mi hanno chiesto preferisci pasta lunga o pasta corta? E io ho detto fai pasta corta. Spaghetti, vabbè. Se avessi detto pasta lunga, almeno erano puntine. Vabbè, ascolta, appena ti faccio quel microfono, andiamo a mangiare fuori, ti va bene? Se ti va, naturalmente. Andiamo in qualche posto, mangiamo la pizza, quello che è. E ci organizziamo. Vabbè, anche non c'è problema, ci mancherebbe. Allora, l'apparecchio di cose è a posto, l'ho riparato, c'era il quarzo, poi c'erano le fasce contatte, eccetera, eccetera, adesso in pratica io restituisco, dopodiché mi salgo il mio e l'abbasso di amplificazione e dopodiché in pratica ti sistemo il microfono così almeno sei a posto e sei tranquilla. Ho comprato il palo, lo sai, sì, per Giovanna. L'hai piazzato o l'hai comprato? Non ho capito. No, l'ho comprato, il palo per Giovanna, 6 metri. Permetteci da me con i 5 ottavi, capito? Il terrazzino, solo che sta piovendo, cazzo, il casino è quello. Ho preso anche i tasselli, eccetera, eccetera, per fare i buchi, in modo da poter installare il palo. E invece cazzo sta piovendo, vaffanculo, cazzo. Io le staffe che reggono il palo avevo messo i tasselli chimici con le barre filettate. No, io direttamente faccio i furi. Spero di avere la fortuna di avere il cemento al matto vicino al gabinetto. Se trovo il coso lì sono a posto, la verità, piazzo il palo e gli metto l'antenna e almeno parla anche lì, cazzo, parla. Sai quanto mi ha fatto pagare un palo? Non ne ho idea. 70 euro. E allora ti conviene mettere il palo e basta, senza l'antenna, e un accordatore, così ti accordi il palo e esci lo stesso. No. Sta scherzando. No, c'ha l'Energy 5 ottave, di piazza quella, a livello del caminetto, hai capito? E basta, non mi faccio altro, basta scherzare. Se ne ha perso filato, cazzo, capace che me ne scende tutto in terra, me ne scende. Allora almeno parla Giovanna, hai capito? Tutti giù. giorni, quando ne ha voglia, fa tocca entrare in camera del figlio, balla e si fa quelle due o tre ore di modulazione, dopodiché se la piglia in culo. Comunque Antonio, se ti dovesse servire una mano, che da solo non si può piazzare, perché uno regge il palo, l'altro deve stringere, se hai bisogno di una mano fai un fischio, un sabato pomeriggio non c'è problema, o una domenica mattina. Adesso vediamo un po', non lo so, a parte che la voglio pensare da carazzino, hai capito? E sono più tranquillo, anche perché non c'è più posto, se la penso dall'altra parte poi mi dicono magari stai sopravvando la televisione eccetera eccetera, capito? Mi fanno staccare tutto, quindi a un certo punto voglio fare come l'altra volta, me la piazza nel terrazzino, non può dirmi niente nessuno, è proprietà mia e quindi se la possono prendere in Napoli. Adesso vediamo un pochettino. Ma su un singolo palo, su un palo, quante antenne si possono piazzare? Anche due, ci posso piazzare la direttiva, quella VHF è quella che è, due antenne le puoi piazzare. Mettendo una staffa a L attaccata al palo e mettere la seconda antenna sulla staffa a L. Esatto, sì. Solo voi ce l'ho la staffa L, quando voi vedete la prendi. No, no, ce l'ho giù in garage, l'ho trovata. Allora, già va bene, ok. Già va bene. E invece due apparati con la stessa antenna non possono funzionare? No. Non si possono attaccare in parallelo due apparati con la stessa antenna? Poi un apparato per dire ascolti il 10 e l'altro ascolti sul 12 per dire. No. Lascia perdere, fregatene. No, sono invenzioni che mi sto facendo nella mia testa. Non va bene, fregatene, a fottitini. Meglio due antenne. Se ti faccio sentire l'apparecchio che ho riparato, quello di... forse hai sentito anche gli... quello di Antonio, Bombolo, quindi è uguale al tuo, più che altro. Il discorso è più che altro che c'è solamente 34 canali, sei sotto, sei normale e basta. Tu l'hai voluto così e l'hai lasciato così. Aspetta che te l'aggancio. È solamente il problema di cosa? Del quadro. E beh, è sparito, sì. Mi senti? Tappa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Il segnale c'è, arrivi 9.30, però la modulazione non mi piace. Che senso non ti piace? 1, 2, 3, 4, 5, 6, è normale. Adesso sì, poco fa o eri tu lontano, boh. Ah. Cazzo, che cazzo sta facendo così adesso? Allucinante, cazzo. Cazzo va bene. Sì, sembra quasi che muovendo il filo facesse il rumore. Ora, 1, 2, 3, prova. Ora. Mi ascolti, sì? Sì, ti sento. Ok, già va bene. Strano, cazzo, mi hai fatto una cosa del genere, cazzo. Sono freddo. Questo è Midland, mi. Mi senti bene, sì? Sì, papà. Sì, si sente bene. Quando la palica non lo usi, sembra che cazzo è, boh, a un certo punto. Sembra mio, cazzo, sembra. A un certo punto. Adesso vedi, funziona benissimo. E magari deve scaldare da quando lo accendi, sono magari c'ha la sua età, non lo so. Sì, infatti magari sa qualche fatto di sotto tua faccia, cosa cazzo ne so, buh, adesso non lo sta più facendo, è perfetto. Sembra l'apparecchio che ho io, la verità. A volte funziona, a volte non funziona. Quando c'è freddo, eccetera, eccetera, non funziona più. Il 2009. E magari quando lo accendi prima gli dai una passata di forno, di asciugacapelli, lo scaldi bene e poi provi. Ma tu a un certo punto, ma comunque adesso va bene, è perfetto, non farci più segnale. Dimmi quanti Santiago ti arrivo. Fa un passaggio. 1, 2, 3, 4, 5 e basta, io arrivo sino a 5. Se non mi metti 5, sì, la verità. Radio 5. E adesso è migliorato il segnale, è salito? 9,30. Sale così poco, pensavo che salisse di più. E lo sai che siamo vicino, quindi a un certo punto cosa vuoi salire? C'è poco da salire. E ti volevo spostare la radio. Magari. Lo sai che quando siamo vicino cambia tutto, cambia. Se lo usi l'apparecchio, cazzo, gira, ci rimetti, cazzo, a un certo punto. Ma che cosa? Come addirittura. Sì, viene fuori con molti rumori, come che ci sia un falso contatto sul cavetto del microfono. Molto borbottio di sottofondo. Io non so più cosa pensare. Secondo me è questione del cazzo della questione solare. Hai capito? Ci abbiamo quel cazzo di merda del sole, il cazzo che sta andando a fanculo. Quindi a un certo punto, come cazzo fai? Adesso mi sta funzionando bene, hai visto? Sì, adesso era buono. Appunto per quello, non ho toccato niente, guarda, non ho toccato nulla. Si è ripreso da solo, si è ripreso. Il discorso è quello. E come, non lo so, ci fosse qualcosa che, non lo so, vabbè, comunque sia. Me lo fa anche nell'altro apparecchio, la verità, nel cavo me l'ha fatto lo stesso, ieri, nel 140, quindi figurati tu, ho problemi di qua, ora. Non lo so, l'antenna è quello che è, vabbè, adesso ho messo pigliato il palo nuovo, adesso vediamo un pochino di cambiare il palo e vediamo un pochettino. E trapano cancellatore serio ce l'hai? Ah? Il trapano buono per fare i buchi ce l'hai? A voi il trapano mio, i buchi, perché dimmi, puoi fare i buchi tu? No, per saperlo, se ne avevi bisogno. No, non ti preoccupare, buchi non devo farne, grazie a Dio. I buchi ce l'ho già, in pratica, c'ho due gaffe, piazzo il palo, lo sollevo, la terra e siamo a posto. Allora, beh, com'è? Qua per le industriali, no? Mi senti? Ah, cazzo diavolo! Ah, sosso già, mi senti già? Già sparito già. Bupu. Si sta bruciato il baracchino, non penso. Sosso, mi senti? Come te, non gli frega nulla. Quindi, sono puto. Adesso attacco l'altro apparecchio, dai, vediamo se mi sente con l'altro. E allora, Golfo della Zimara, dove sei? Chi c'è?

Da me Santiago 9. E tu c'hai il forte, ciao quello. Ehi, anche adesso che l'industriale non vuole pure il carbone, va di due fuori, due cose ne pensate, scrivete le mie commenti. Ciucu. Ma anche vi più venne, anche vi no che più venendo. Ho capito. Se ne sta piovere lì. Sì, sta piovendo adesso. Appena sistemo le cose. Ho cambiato posto di dell'antenna e poi vediamo un pochettino se arriva meglio o peggio. Il discorso è quello, ok? Piazza Rogero, piazza la Gurudrone che ti viene più bene, rimane più leggero. D'accordo, non c'è problema. Comunque, se vuoi parlare con me, non c'è problema. In PMR canale 7, se ti va, non c'è problema. Eia, ok, allora, se coincidono gli orari non c'è problema. Non c'è problema, andare là. Da quello che già arrivi a Sassari con PMR, ha voglia che arrivi. Tranquillo. Eia, ma cosa vai, ecco, dai attaccato a tipo attenzione alla linea del camionista qui canale 45, ecco. Sto usando un apparato che si usava una volta nei 45, canale 45, adesso sono morti, quindi a un certo punto lo uso di qua in 27, capito? Il discorso è quello lì. Ma se guardi bene è totalmente diverso, non è come quello dei 45 fa che sembra una cagata, sembra che stanno in bagno a cagare, capito? Che esce fuori cazzo il coso, no, questo è totalmente diverso, l'ho modificato io. Ma sui 45 cos'era? 6.000 di frequenza i canali pirati, 6666. Ah, 666, no. 27465 in pratica. 27465. Esatto, sì, bravo, ci sei arrivato. Quelli sono i canali dove si può fare DX in tutto il mondo. Poi dopodiché ci sono altri canali, vabbè, c'è altre frequenze, eccetera. Tutto lì. Andare Caffarogge, capito. No, ma si sente bene, va bene, è bella la fine. Già va bene, non c'è problema. Da parte mia. A voglia. Avanti. Sparito. Ma la foto poi vista l'hai? La foto? Guarda su WhatsApp. Aspetta, un secondo, ricontrollo. Sì, l'ho vista. Attacco dell'antenna. È un antennino piccolo, sono 50 cm d'antenna da mettere fuori. 17,59 euro. È una cazzata. Mi figura di tu, poi su e giù, sono pronto, sabato, domenica, metto tutto. Poi c'è anche l'antenna grande. No, ma questa è per attaccare quel palmare che c'ho, per fare un po' di ascolto. Oh, per quelle frequenze di là, sì, cazzo, non c'è bisogno di... Vabbè, sto esplorando sempre. Vabbè, io comunque c'ho tutto, c'ho, non manca niente, la verità. Vuoi due volte, non so, cose, una per una c'è la direttiva, l'altra c'è la verticale, e dopodiché c'è l'antenna per la 27, eccetera eccetera. Vabbè, adesso devo installare, ho già comprato il palo, devo installare l'antenna per la per mio nipote, quindi a un certo punto sono a posto. Solamente potete installare e basta, dopodiché vediamo un po' come funziona e come risponde l'Americo di 5 ottavi. Sparito, sì. Hai visto, Antonello, quel ragazzino che è stato fatto scendere dal coso, dall'autobus perché non c'aveva il biglietto? Non ho capito nulla, dimmi, stavo buttando il coso, dimmi. Hai sentito di quel ragazzino che è stato fatto scendere dall'autobus perché non aveva il biglietto e si è fatto tipo 2 chilometri a piedi in mezzo alla neve? Già l'ho visto già, poi lui ha dichiarato, dice che è lui, oh, non l'ho visto io, eccetera eccetera. Hai capito? Fatta scemo, cazzo. Ma secondo te, cazzo, ti faccio scendere, non l'hai visto, cazzo? Ma c'è gente scema, amico, come è tristica. Se avessi saputo, cazzo, cioè, fosse stato che la ditta che l'ha assunto aveva lasciato minimo una settimana senza lavorare, senza stipendio, senza niente. Sta tranquillo che avrebbe caricato chiunque, non ti preoccupare, questo è poco ma sicuro. Invece fanno quello che vogliono, non capito gli autisti di questo cazzo di boom, tram, quello che è, hai capito? A Napoli invece l'autista fa scendere il ragazzino dal bus perché aveva il biglietto e ha commentato: inaccettabile a Napoli. Io la vedo. Sono arrivati a quel punto, sono arrivati. Se tu sali in un tram, in un bus, non sai manco se ci arrivi a casa. Ma gli autisti sono diventati stronzi. Una volta assunti, come hanno... capito? Quindi a un certo punto di tutto si vede, di tutto di più, hai capito? Vabbè, fu stato un discorso, cazzo, che un autista, cazzo, lo picchiano, eccetera eccetera, uno è stato comunitario tanto quanto, ma quel poveraccio, cazzo, è rimasto lì fuori al gelo, cazzo. A un certo punto e mai sono diventate viola e cose del genere, gelate eccetera eccetera, ma ce la fai? No, esistono. Vabbè, io me ne passo in bianco perché mi faccio una doccia calda, perché mi sta entrando il freddo nelle ossa. Adesso mi metto in doccia acqua bollente e quando sono mezzo cotto ne esco. Ah, vabbè, non c'è problema. Quando sei mezzo cotto di calore, già siamo qua, non c'è problema, sono su 10, basta chiamare. A dopo, Luca. Gianni è sparito, quindi siamo in due, siete in due più che altro. Vabbè, se vado l'ascolto, là, ok. Ci sei, doppio room, Gianni, doppio room, ci sei. E che è sei? Ciucucciu. E beh, Antone. E beh, tanto come va? Tutto a posto? Tutto a posto, niente in ordine. Come dalla macchina? Bene, mi senti? 8 di segnale, radio 5. Questo tutto a casa, un po'... Va bene, ne va, io sto scendendo e vado a casa. Ciao, ciao, ciao. Ah, bene, ok, fa quello che devi fare, non c'è problema. Io sono diventato neanche nuova fa, quindi figurati tu. Fino a un certo punto adesso mi sto facendo la cena adesso, e sono a posto. Scappa, dai, che sto salendo a casa. D'accordo, d'accordo, non c'è problema, fregate. Ok, a posto, a posto. Budubum, budubum, cia cia. Comunione, un po' di pasticcini, l'ingalillo, tutto quanto ci hanno mangiato. Pasticcini di Carruccio? E beh, Gianni, doppio rum! Negativo, Luca. Tu sì! Luca? Ah, Luca! E beh, Luca, tutto a posto, non è piove a Sassari? Forse sì, però non lo so. Sono chiuso in casa. Buonasera! Ciao, buonasera, ben ascoltato. Beh, cos'era? Hai messo a posto il gas? Me lo so, si scrivendo. Però è come dicevano gli industriali, no? Ponzi a carbone, che esce troppo fumo, e se no la produzione non incrementa. Adesso che apparato stai usando, insomma? Sempre il mio, che bandiera che c'è, il 68 di Che Guevara. Però molto bene, dai. Vi ascolto che sto pulendo in casa, dai, ci sentiamo magari un altro momento. Cappa Rogero, andavè. Quindi Luca, no, che mulinendi. Molto sta piovendo. E insomma, dai, lo tanto ti fa fascire un cucù e tu mette la giraffa. E almeno se piove poi fa qualche giorno di sole, escono gli asparagi. Ehi, chi si dà che c'è di sole da voi? Chi si gli asparagi, gli assommoni, chi si catturati? O anche crudi 4 o 5 sono buoni, ti depurificano. Però con i fatti al cartuccio sono buoni. E poi fanno bene, che puliscono il circuito della pipì. No, figli, e da voi passiamo d'ora tutto fugato, via, e allora cosa prende? E metta una birretta, buona birretta, un defaticante, signori, di quelle amare. Ma Gianfranco sull'albero blu l'avete inteso, un cazzo da che è andato a pigliare sul casco è nato all'albero, non è più parato. E la si è preso la maimica blu. E va bene così, dai, ciao a tutti. Oh già. Ebbene, dimmi. Ascolta, tu a Falconero di Socio lo conosci? A chi, Gianni? Falconero. Affermativo, certo, ma non lo so così ne trattene più radio. Allora ci ho ben peso. A me che si disastra, c'era mi dentro, dimmi. Dai che è un fuori in gambo, è un sussinconi, Mi sembra che lavorava anche ai Cavalieri di Malta, alla CISOM. Anche io, 17 anni. Togo, io per un anno. Un paio d'anni, da. Ma io facevo servizio ambulanza per 17 anni di Alciso. Capito? Facevo 118. Togue. Noi andavamo quando c'erano le processioni e le cose, noi li seguivamo. E anche quello ho fatto. Ma la dovrebbe avere sempre la radio Falconero. solo per vedere come uno entra. Eppure chiedo a qualcuno che entra ogni tanto nel canale a vedere se, lo, se da un mese sta sentito a far con lei. E lei se sono da un po' là. Naturalmente questa cosa te la volevo chiedere adesso, beh, sto lavando, non ho tempo a stare a lavare. Vai, lui se vende già, non la sa nulla andare in lui, la niente, tanto è ui. No, ma la niente, la fai me. Anche, brecco, il dottor Windows non è sede. Ole chicos, ole chicos. Buonasera. Fabio, sto facendo pulizia, ti ho sentito chiamare e ti ho risposto per quello. E allora, dove sei, a casa? Sì, a casa sono. Credevo che fossi in macchina per chiedere quali controlli. E poco fa c'era San Pedro, c'era Luca, poi ce ne sono andati via. Non so. Io, cazzo, sempre facendo roba, quindi no. Non lo so già. Adesso mi sto cucinando delle patate. Fate a cosa le sto cucinando piano piano. Anche io le ho fatte. Domani faccio il puri di patate, le ho bollite, spellate, adesso domani le schiaccio, li metto burro, latte e faccio il puri. Solo che fatte così le deve sempre girare, le deve. Esatto. Fate così in padella, le devi girare molto spesso, capito? Sì, già lo so, già lo so, non è la prima volta. Kappa. Io la prima volta che le faccio così, l'ha fatta mia cognata, mi sono piaciuta, mi sono convinto pure io. Kappa. Una bomba. Cos'è una bomba? E funziona tutto bene. Meglio così. Sono contento per te. Vado a farmi una doccia, dai, ci sentiamo magari se ce la faccio dopo. Ehi, a capo già, dai. Ma poi sono capresaghiccio, mamma mia. Ui, Ciccio. Allo, 1, 3, 4, 5, 6, prova.